Se ti va di stare solo aspettando in un caffè, se nascondi i tuoi occhiali, se ti pettini, cos'è? È innamorarsi, innamorarsi, innamorarsi, e non può essere diverso. Innamorarsi, innamorarsi, innamorarsi. E poi c'è la prima volta che si crea l'occasione di una casa senza amico o abbracciati in un portone. Emozionarsi senza toccarsi, innamorarsi, scoprire il sesso ed abbuffarsi, e quasi a morsi, innamorarsi, scrivendo versi, e sposarsi o non sposarsi, l'importante è star con te, darti senza abituarsi ad avere in cambio me. E innamorarsi, ma litigare, essere orsi, e con gli sguardi cominciarsi un po' a tradire, ad accettare dei compromessi, ma innamorarsi di un viaggio su una stella dove c'è il tutto, verso il nulla, che nel cuore, nel mio cuore adesso è lei. Sa più innamorarsi a qualcosa che non va, e rubare per bucarsi certo non gli servirà. A innamorarsi, a innamorarsi.